è garantito, perché non mi muovo. Fate con me ciò che volete fare. Provate con me, smettete di sognare. Fatelo con me. Strappo via, la giacca è già sparita, il rasoio è quasi dolce tra le vostre dita. Uno strappo più forte che sento.